Cioè, avanti. Stava dicendo basso basso, dicendo. Io sto modulando la Sassari. Kappa, mi senti anche da zero, mi senti? Sì, a zero sì, no? Kappa, ho capito. Tu mi arrivi basso basso, mi arrivi. Guarda, non è che ti senta molto bene, sei a livello di QRM, sì. Ti senti bene lì? Ti devo aprire la radio di antenna, perché qua sei Santiago 1, Radio 1, sì. Senti chi chiama Antonio? A livello QRM, sì. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? No, siamo tutti usciti. Eh beh, come va? Tutto bene? Se ti leggi i messaggi va ancora meglio, però. Hai detto un attimo, Gabbaito. Oh, Lu. Ehi. No, non ce ne ho di quella roba lì, no. Ehi, va bene, non fa niente. Capito. Ehi, ho detto non fa niente. Attenzione 10, c'è qualcuno? Chi è avanti? Bombolino, bomboletta! Uè, ciao Lu, buonasera! E beh, tu? Beh, sta a posto? Kappa, saputo l'hai? Di Bacchisio, sì. Certo, mi dispiace tanto, cavolo. E domani vado a vederlo domani, perché ne ho la cosa, lo conoscevo un sacco di anni, lo conoscevo. A casa sua, Sì, sì, in casa sua. E allora fatti bene che andiamo assieme. Ok, non c'è problema, domani mattina andiamo, Intanto io sono giù, Ma scendi giù. Poi andiamo in macchina, facciamo un salto in macchina a piedi, boh. Kappa, ora sei giù, sei? Sì, ya. Quasi 9:20 sei qua. Tu sei, fai? 1, 2, 3, prova. E tu sei in mezzo, tra il più e il 3. Sì, già va bene. Chi è vero oggi? Kappa, kappa. No, andiamo. Va bene, domani mattina io... Ancora ci vediamo. Anche dopo e tu. Cosa adesso? Non lo so, dimmi tu. Io verso 8:30 sono giù. Così presto puoi andare? No, più tardi, ma è verso le 10 così. Ehi, al funerale domani alle 3, se vuoi andiamo insieme lo stesso. Mi farebbe piacere, dai. E lo conosci da un bel danno, lo conosci. Vabbè, anch'io un bel po' di anni. Il personale l'ho conosciuto un paio d'anni fa. Poveraccio, vabbè, una malattia purtroppo, una malattia di merda. Kappa, mamma mia. Li volevamo tutti bene perché era una persona seria, cioè, era una persona seria, veramente. Lo so. Purtroppo la malattia non guarda in faccia a nessuno, perciò è così. Chiara gara. Ma la radio è cambiata. Ho cambiato microfono. Ho capito. Kappa, perché non va bene col microfono nuovo? Sì, va bene, avuto. Va bene, va bene. Kappa, sì. Ho cambiato il microfono, ho voluto provare questo. Ma con quello piccolo l'ho sistemato io? No, è un altro microfono, No, la radio, quella che avevo sistemato io, no. No, è l'87. Ah, va bene. Kappa, già va bene. E a voglia, di lusso. Kappa, ui. Allora, vabbè, ci sentiamo, Eto, verso le 10, così, ok, già, non c'è problema. Dove mi faccio trovare, giù a Santa Maria di Pisa, lì, da Marina? Eia, eia, oh, per il funerale io domani sono in campagna, dovrei salire dalla campagna, capito? Ok, adesso vediamo, non lo so se posso venire al funerale, perché siamo giù, capito, è un casino. Già è saputo che è morto fratello di Marina e purtroppo dobbiamo stare giù per non lasciare i genitori soli. Dovete stare giù, Bern? No, ho detto, dobbiamo restare giù per far compagnia ai genitori, capito? Vabbè, se ci può fare, si fa. Adesso vediamo, ora. Guarda, faccio un salto, un attimo. Dove era la funerale? Lì, alla chiesa della Madonna del Latte Dolce. Ah, ho capito. Ma aspetta, quella che c'è, dove c'è il campo? Sì, lì è. Ho capito. Ah, giù capito. Vabbè. Purtroppo anche lui è andato all'altro mondo. Kappa. Sì. Aspetta che capo, alzo un pochettino il volume, che no, che so fa vedendo e non capisco niente. Kappa, ma i genitori sardi sono di Marina. Allora. Il padre è sassarese, la mamma di Usi. Ah, sì. Kappa. Kappa. Sacco gioco, mamma mia. Tutta la ghida è stata pesante, è stata tutta canta la ghida. Lo so. Purtroppo anche così. È un lavoro molto pesante, molto. Ah, lì è giubilato la mamma, l'abbiamo interrato, no? Di scorta la prendiamo sempre da 15, cazzo. Pesami, ma giù. Che pesa? 30 kg pesa. Per il problema che c'era la schiena, per me è pesante. Se non avessi questo giorno alla schiena, dobbiamo dire se ti dà 50 kg di gimento, e usavo che sia 30 kg. Capo, vabbè, è pesante. Forse anche di farina. Capo. Già lo so, è pesante a salircela su la bombola, lo so, purtroppo è così. Vabbè, cuocomani. Ui, vabbè, ciao. Oh Marco, buonasera, come va, sta a posto? Via. Per modo di dire, dai. C'è anche Luca, aspetta che qua non mi raccordo che era quasi a zero. Io sto per cucinare, solito tran tran, dai. Riprendi Luca. Marco, prendi bella. Beh Marco. Ehi Luca. È così, dai, poi ti fanno, ti viene da pensare sempre che quando manca qualcuno, non dico conosciuto, perché io conosciuto non lo conoscevo di persona, però fa capire come siamo di passaggio. Vai Lu. Lo so, purtroppo la vita è un po' per tutti, è un po' per tutti. Scusate, lo diceva lui, no? Quando era più giovane moriva la gente, e purtroppo è toccato a lui, e così diciamo noi, e poi tocca a noi, e così la vita è una ruota, e più va, gira, va sempre avanti, chissà, se ci sarà il finimondo, non ci sarà più nessuno, chi lo sa, Via, sto provando l'altro 3009, quello del display rosso, e c'ho sempre lo smitter spento, Luca, in unione con l'MB più 5, va bene, ti ascolto bene. Tanto su Facebook mi hanno bloccato per un mese, carità. E cos'è combinato? Che è telescato? È da Trudi, cara, che scende da Trudi. Non sarà questo, no? Prova. Chi è Marco? Fischi Marco. Ma fischi sono, guarda un po'. Vai di negativo, vai. Ciao, mi. Che palle, nel strazzodotto. Guarda che va benissimo tu, ciao a tutti. Sto uscendo bene, ciao Tino, prova Marco. Ciao Tino, io qua non posso autoascoltarmi, eh. Sicuramente è colpa del mic. Tino, come va qua, vedi un po'? Io ti ascolto bene, sì, anche in positivo. Allora, ho battuto in qualche canale sicuramente, me lo fa... mi fa quel problema lì, già può essere. Sì, anche altri baracchini me lo fanno. Eia, che brutto questo smitter spento. Ancora non ho cambiato la lampadina, oppure messo il LED. Preferirei pagare 30 euro purché me lo facciano. Ui, buonasera Tino. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sto facendo un po' di fotocopie, quindi ero l'ascolto. Ciao. Beh, Marco, come va? Va che devo cucinare, dai, devo mettere mano ai fornelli, quindi lascio acceso e mi dedico ad altro, ok? E poi che altro dire? Vabbè, rimango all'ascolto, se siete qua rimango, lascio acceso e boh. Capa, c'è appunto là io... Oh, Marco. Sì, ne stavamo parlando con Luca fino a poco fa. Che siamo di passaggio, io non l'ho conosciuto Bacchisio, io poco tendo a andare a conoscere alla fine, è così, vai Tino dai, quale VX c'è per me, bianco? Sì dai, anche io sono qui al PC che sto facendo delle cose, dai, rimango l'ascolto, dai. Sono entrato giusto Marco per darti conferma che stai andando bene. Anche la tonalità può andare bene, il tono l'ho messo a 2, che io ho la voce di Topo Gigio o Votino, capito? Per far finta di avere una modulazione più bassa, di come dire. Va bene. Più mascola volevo dire. Più mascola. Va bene, così sì. La partita che sono impegnato PC. Ciao, a dopo. E io ciao a tutti, ciao. Vai Antonio. Oh, sembra così, ma questa volta la si sente un becca. Questi alimentatori, quelli cinesi, da. No, bene, niente da dire. Però sento un bel avvento. Vabbè che ce l'ho vicino. Devo trovare un sistema dove poterlo nascondere. Perché, guarda, è fastidioso, no? No, vabbè, io me l'ho messo lontano, quindi non è un problema, dai. E facciamolo un po' in terra, c'è quindi. Solo che in terra, ma ricordo è colto, capito? E c'è quindi. Si sente adesso. Capa, io dico una cosa, per la qualità, per il prezzo, guà, non ce n'è per nessuno, dico la verità. Io l'ho modificato anche a Gianni, gli ho detto più rumo, l'ho fatto praticamente uguale al mio. Vabbè, come si trova? Adesso ti mando le foto, aspetta. Capa, no, io l'ho tenuto originale, la verità. La Tacuba, dai, tocca, fatto così, modificato la Tacuba, originale con i fili davanti, i volanti, ma... Vabbè, poi ognuno si utente con i baleri bianchi, Capa, ciao Natali, buonasera. Ciao Luca. Ciao Natali. E allora Natali, come bene oggi? Sì, me ne sono alzato poco fa, non stavo bene. Cioè, non sto bene. Capa Natali, ma stavo usando pochi watt? Sì, 4 watt, i soliti. Capa, dai, un po' con la televisione si intende. Sopra fondo scala sono io. Guarda anche tu, è bello, guarda. Aspetta che guardo. Sì. Lì non sono, senti quelli dei bighe. E si sente la televisione perché sto usando le MB più 4, l'altro che avevo, no? E l'ho piazzato qua. Ed è a metà mi. Allora, ma chi è questo qua? Chi è questo qua, no, lui? Quello che c'è, cioè, quello da 50 o quello da 30? 50 Gianni, Gianni di doppio rumo, 50 ampere. Però non si vede nulla, è perfetto, portata 13,8, è perfetto, è stato contentissimo. Gabba, cosa mi stavi dicendo lui che ha dovuto rispondere a un messaggio? Alto? Mi stavi dicendo qualcosa? No. Gabba, vai. Antu, si sente la televisione perché ho messo l'altro MB più 4. Ho rubato a Natalino. Ma se tu farei intendi in te. Cazzo! Che bagabba, senti qua vita mia, gabba. Chi arriva più forte a latte dolce? Io Natalino. No, Natalino, riprendo il mio modificato Colt, se lo metto in macchina, gabba. Ti ho visto quando l'altro giorno, quando ti ho visto, aspetta. Allora, fammi pensare. Stamattina. Può essere Natalino. O ieri, No, stamattina ero a letto, non mi sentivo bene. Ieri siamo usciti. No, ti ho visto comunque Natalia. Sei passato due volte, mi sei costretto, ma poi non riuscivo a trovare il parcheggio. Non riuscivo a trovare un parcheggio. Ma cazzo che ti ho visto, fammi pensare. Ieri. Facciamo la macchina io, ieri. Vabbè, comunque ti ho visto, no. No, forse avanti ieri mai visto. Ma avanti ieri, comunque ti ho visto, c'è un'antenna sulla capotta. Vabbè. Positivo, va bene, dai. Ho notato una cosa, quando c'è un bel di freddo qua, questa casa di sta bene, è stata una bella giornata, ma quando c'è un bel di freddo lo smitter mi funziona male. Sarà sensibile alla temperatura. Come sto dicendo dentro di radio, questo è l'altro MB più 4 che avevo, no? E l'ho piazzato qua. Come un cuoco, ma ne Natali stai uscendo. Dai, ma come lo combo? Tutti che mi capisci, caro. La Juventus sta vincendo 1-0, la squadra di merda. Juventus, è un termine già sentito. Natali, ma poi l'avevi preso quel ricevitorino famoso HF? No, non l'ho preso perché se non ho carta che me l'hanno clonata. E se ti dico cosa mi è successo, te ne tappa pure la risa. A chi lunedì devo andare a farmela rifare la carta del reddito di cittadinanza, che te l'ha mangiata il cane, quel bastardo. Il cane te l'ha mangiata. La senti mamma che sta ragliando di sfondo? Aspetta, adesso non sta parlando. Natali, manda, guarda che ho mandato un messaggio su WhatsApp. Buon controllo un attimo. E aspetta che lo controllo lui. Sì, che la sento, l'ho sentita la mattina. Capa, Marco, ci sei? Che regga. E avanti, capa. Come sto uscendo di radio con questo MB più 4? Antu. C'è una cannonata Natali. Mi ha attaccato quell'altro che avevo. Mi ha attaccato lo spinozzo e me l'ho messo. Sì. Guarda, hai fatto benissimo. Sono contento. Capito, ce l'ha mangiata il cane, Marco, la carta del reddito di cittadinanza. L'aveva cotto una zussa, gà. Sì, perché lì ne ha colpa, no? La colpa è di mia moglie. Io l'ho data lì per andare a comprare roba in farmacia, no? L'ha appoggiata appena sul divano, cazzo, e me l'ha distrutta. Adesso lunedì mi tocca andare alla posta a farmela rifare. Perché ci sono anche i soldi dentro. Capa, deve fatela rifare sì Natali. E cosa vai? Sì, perché ne mancano pezzi e poi non entra nel posto, capito? Capa, così è. Vabbè, te lo fai rifare, te lo fai Natali e via, e via. Speriamo che me lo facciano subito. Gabba, sì, stavo dicendo, Natali, la prossima volta, quando te la dà, te la rimetti subito in tasca, te la rimetti. Gabba, Natali, ci sei? Sì. Non mi tengo assai bene stasera. Sì, io ero tutto il giorno che non stavo bene. Gabba, io sì, scendo giù un attimino. Al bagno scendo, dai. E risalgo subito, ok. Ciao, siamo qua. Marco lì, ci sei. Kappa. Chi è? Ehi, ehi, siamo qua. Ehi, Natali, eccomi. Uiuia. Guarda che vendi. Dimmi, mi sono seduto adesso qua. Perché ero sempre con il capo, mamma mia. Io per merda. Agare. La pagava. Che la gara? Luca. Oh. Cazzo, io per merda. Che non posso dire. Se ti intendi anche tu, mamma mia! La baita! Sai quanti io ventino offendo la mia scuola e poi mi cammin cazzo, dico io va merda appunto! Cosa hai detto lui? Vabbè dai, chiudo battenti, Antu, dai, me ne vado, c'ho giorno, aspetto la 25, dai, ciao Antu, ciao Natalino e ciao a tutti, dai. Alla prossima. Ciao Lu, ci sentiamo. Ho i disturbi nell'aria. Tu non hai disturbi, Natali? No. Non so che cosa. Cosa che ti chiamo un attimino? Natali. Sì. Marcolino, ci sei? Ehi, dimmi! Sono no, già ce l'avevo, già non avevo capito bene che cosa era. Sì, le dranvieri, so. Cazzo, il PMR va per muli pisani, andiamo per... A ripidare? Il PMR va per muli pisani, furu. Già me l'hanno detto, già. Me l'hanno detto. C'era a sostare la macchina. Ne ha sonno. Dormita, sì. Cazzo, che andiamo per... Dormi. Guarda, forse che ti devo pidare. Sì, proprio a me è acceso. Io ce li ho vicini quelle lì. Ma ce li avrei più vicini di me, sì. Cappa, modo in quelle frequenze lì parlano. Si conferma. Scappa, cappa. Cazzo, stanco sono. Cavarogero, cavare, ma lei come non è? Gaba, wow. Ah, se vendi lo? Facendo, controllando, kappa. Ma adesso scendo anche. No, io ti sento bene, ti sento. Kappa. Oggi non si sente nessuno, no? Sì, vabbè, no, non se ne ha voglia oggi di fare questo, ma normale, là. Io non ci parlo con quelli che hanno la voce fina. Aspetta, sto scrivendo. Sto scrivendo nei miei, cazzo. Era un momento sbagliato l'indirizzo della GLS, anziché il mio hanno messo un altro indirizzo, e quindi sto rettificando. Ma il fatto è che stamattina sono anche andato e metto, no qua c'è il tuo nome però è un altro indirizzo, sei tu, e tra l'altro. Invece poi arrivo a casa, tra una cosa e l'altra, ho controllato le mail e c'era quell'indirizzo là, che ha dovuto chiamare Italo a rettificare. Antonio ha rettificato. Che devo essere rettificato? Scusate, che finisco di fare. Mi sento questa roba qua, sono mi intrippo. Ok, tipo, vai, non c'è problema. Meglio dopo ti. Perché tu abiti vicino alle rettifiche, Antonio? Ragazzi, i nonni che fa delle rettifiche. Un tempo c'era vicino, ma adesso mi pare non c'è più nessuno. Ah, vabbè, ne abbiamo un pari, tipo. Cosa ne ha preso un circolo forse? C'era quello che parlava qua un periodo. Capelli vera prima, di fare rettifiche Ghibo. Ah sì, è vero. Però adesso dove si è trasferito lì in via delle Conce, non lo so se ne fa ancora o che cosa. Ma non era morto lui? Sì, ma c'è il figlio. No, non è fatto più io. L'altro giorno ho avuto una cosa, una storia strana. Ah, si è fatto rettificare anche lui? No, viene rettificata bene la canna. Dove? Fregato l'anno. Quello che vende per il cambio, lo figlioro, così è. C'è ancora lì, via delle Conce. No, praticamente gli hanno soffiato i dipendenti l'altra città. Si è fatto butti. Siccome lui aveva problemi a Vepa, e come è successo lui? Avendo problemi, mi ha intestato a quelli lì, chi dice, ma che sarebbe meglio della nepotito, non è più di lui. Cosa? E sto facendo io, la vado alla pendenza, a me va per uscircene un po', per cosa ti sta da chi c'è? Marco di Gardena. Chi c'è? È meglio della nepotito. Una storia brutta, Ello, una storia molto molto brutta. Non lo sapevi? Allora mi sei messo giù pure. Cosa ha detto? Allora vi siete messo tu puro? Sì, io non l'avrei mai fatto una cosa del genere. Vabbè, siccome hai detto una storia brutta, poi sembra che sapevi proprio per filo e per segno. Poi se sono voci che ti hanno detto, lascia di bici, che la gente racconta che su di biasi a tutti. Mi frega te che mi ha detto una persona sicura, me l'ha detto. Non me l'ha detto un cipito. Sì, davvero, oi. Sicuramente non c'è la Vituccio, buonasera. Oi, buonasera già. No, è vero comunque. Dai, mi sto ascoltando, ma te faccio la pulizia, non ho battuto. Oi, capa, no, già è vera la storia, già. Io so solo che quando devo comprare batteri della macchina, il controllo perché le pago di meno, chi ci viene su? Sì, no, qua lavorano bene. La verità, niente da dire, ho già, lavorano bene, però lui, i capelli, non c'è più. Ma usaci! Io non sono una persona certa, una persona da un meccanico, lo so cosa ti è successo. Che sono molto amici, capito? Tocca! Sì. Va bene che non c'è nulla l'apparecchio, che era detto di RF che facevano l'ispezione, adesso li ho rifatti lui, va bene. Stesso apparato, soliti vatti, 14 portante. Cappa, no, già va bene già, sei quasi 9,50. Vai, ti abbasso i vatti, vediamo un po'. Un watt e mezzo adesso. 9,40, sì. Ah, già arrivi bene però, Sono sceso, beh. Guarda beh, se cambia, guarda lo switcher. Vedi un po'? E già cambia un po', già. Tieni, venga. Aspetta che abbasso di nuovo. Guarda, sì, anche più forte di Gianni, ti dico la verità. Sì, lo so, a Gianni lo supero anche da Claudio. Capo, beh, veramente, io ti vedo a te, non so perché. Gianni ha il mio segnale da Claudio con 400 watt attaccati. Chi è avanti? Alto, qui mi spiego una cosa, a quanto arriva il tuo smitter? Come fai a dare 9,50 se arriva a 9,30 con lo smitter? Perché attenue, cioè attenue e facene ancora, capito? Chi vuole entrare avanti? Chi vuole entrare avanti? Se vuoi sì, è meglio ancora. A Roma non pone la portante, si esce ancora meglio. E quanto ti arrivi a te? 1,30 mi fa. Kappa. Aspetta, è un vento, beh. Bubu. Un vento è un 30. Cosa, Lu? Un vento è un 30. Bombe di vento, beh. E si è aperto qua perché sta friggendo Sara, Sto male. Ho dovuto aprire qua, dai. Chiaro. Cambio! Cambio! Aspetta, provo un microfono, esita. Ma c'è il suo microfono, no, aspetta, devo fare il collegamento. Dai, ci sentiamo fra 5 minuti, anche. Stai fischiando, Lu. Non sono io. Sì, tu. Ah, sono io, Come può essere importante, Gnocchi? No, avanti, ancora lo senti, vedi. Chi è che vuole entrare? Avanti, chi vuole entrare? Ciucucciù, non lo so, qualcuno voleva entrare ma non lo so chi è. Oh, Bianco per me, vai, ci sentiamo dopo se coincide, ok? Hola. Oh, Luca, se ci sei ancora, ci sentiamo, ok? Davvero? Ehi, mi non affittarmi. Che ti offendo? Che cosa? Che sta ti offendo? Domani non sarei su un tetto, figurati. Figurati tu, su un tetto. Che grazie sono vagabitudine. Ma parliamo di luffio che affetti. Oh, Giulia. Vai già per casa zitta, proprio. Se ne vuoi andiamo. È così, Questo. Ho smontato un tetto che ci siamo lasciati sabato scorso. Ah, ho capito. Correndi era andato. Ah? Chi era andato Correndi? Io vado, ognuno fa quello che meglio crede, io vado. Certo. Adesso ho rettificato il nome della via. Cazzo, boh, ma non mai. Se io rimetto la via, aspetta, ti faccio. Dico che cavolo. Allora, la via che mi hanno messo era. Via di Papa Sassari. Ma come hanno fatto a mettere una via per un'altra? Cosa so, anche per la serie di Gabriele che l'ho ritirata la settimana scorsa. Era così, hanno sbagliato via. Ma è andato a buon fine, praticamente era 2 settimane fermo, poi ripartiva in Germania. La Germania ho dovuto rifar venire qua, capito? A me mi pare che ti conviene mandarli in via. Stato sorrendo, altro che. Cosa c'entra la via? Questa è servita dai corrieri, cosa c'entra? Ma vedi i casini che fanno però. Se non vuoi la collegare di andare a consegnare in zona periferica, chi? No, è che io li vedo spesso qua, cioè quelli che fanno questa zona qua li conosco, non è che non li conosco. Poi adesso addirittura ho chiamato quello che gestisce i viaggi, quindi non c'è problema per quello. Il problema è che se sbagliano chi te lo spedisce, capito? Ma quelli come fanno a sbagliare? Se cazzo c'è scritto tale via, quando si vende un modulo, lo scrivevo su internet, come fai a sbagliare via? Non so neanche io. Infatti mi ha trovato questa via qua, non è che mi è arrivato l'avviso, come per dire, mi hanno avvisato la mia email dicendomi che è in transito, che sta arrivando la GLS però la via, guardate, ho detto, è sbagliata, allora ho subito chiamato Italo, ho chiamato un'altra persona e va bene, allora lunedì si rettifichiamo tutto, però voglio dire. C'è Nastu! Ehi, sono Comagnendi! Gacciucci! Cappa dai, ci sentiamo che io sto mangiando! Ah, fendi e vai, la mazza è di Nivaria! Sa che sono se mangiendo? No, sto mangiando, è l'ora di mangiare! Ok, ci sentiamo dopo, ciao ciao! Ciao a tutti, ciao, buona cena! Grazie a te! Aspetta un attimo, devo mettere una cosa in vendita, un regolatore di carica, aspetta. Perfetto. Lo metto su Facebook. Cara Chiki Chak, avanti! Ui, vabbè, come va? Tutto a posto? Tutto a posto? Fa un passaggio! 9:20 a picchi 5 radio 5. Guarda un po', cambio. La mazza che tiene in varia. Quanto è adesso? Adesso sì, a 9:30 sei arrivato. Fai vedere. Sono mezzo geco. Però sei saturo, sei. Abbassa ancora. Te ne mangia un po' la radio, troppo ingresso li stai dando. Guarda adesso. Va sei tu. Va benissimo. Allora. Sei tutto saturo. C'è la differenza, ti fa la radio più bella. Sei 9:10. Ah vai, 10. 9:25. Sì, va bene. E come se va bene. Ah, ma tu bene mi senti? Sì, ma la 30 sì. Ehi, ah, va bene. Lo so, adesso riuscendo. Io stavo mangiando, adesso sto riuscendo a mangiare, riuscendo. Oh, ho sentito pac pac pac a dettagliare! E sono cazzato! Oh, stai misurando le stazionarie magari! No, stavo misurando le stazionarie e poi stavo trovando il microfono. Adesso è proprio questo. Guarda qui. Oh, stai tutto innescando, sai. Non va bene, stai innescando. Stai innescando, fra. E Trudienti sì, ma già va bene. E cappa, fra. Ok, dai, io riuscendo giù a mangiare, ci sentiamo dopo, ok? Cappa, cappa, dai, ci sentiamo dopo, cappa! Guarda, io prendo California a vita via, che bello, che bella vita mia, senti qua, che bello, che bello. 9:30, sì, che la vita mia, sì, cappa. Va che lo basso. Guarda adesso, Ehi, fra, su più, sì, prova tu. 1, 2, 3, prova. Vabbè, va franco con l'antenna, però. Si può l'antenna a franco. In chi mi ha capito, facevo culo a tutti, Io lo so. Non è antenna, facevo un antennino piccolino, vero, fra? C'è bisogno, ci chiama, c'è una mano io. E la piazza è malvito al vivo, con l'antenna in chi. Ah, secondo me, guarda, anche una boomerang ti basta a te. Ah, io non le facevo TVI. Eppure l'antenna è bassa, quella di Marina, praticamente è a filo della mia antenna. Solo che io sono da una parte e l'antenna della televisione è dall'altra parte. Vabbè, butto per ragione, è che abbia vita mia, che bello. Oh, che non viene la targa bicchiere, ma tu va a 5. Pesante, non so, però un'ottima antenna. Io non c'ho la boomerang, eppure farà bene, va bene. Poi chi sente, lo sento, chi non lo sento, non me ne frega niente. Prova? Sì, quasi sul più. Sì, ma va un po', ti ruba un po' di radio. Sul più arrivi, in pieno sul più. Adesso la radio è più forte, perché c'è un micro a due. Sì, sì, ma un po' te la ruba, capito. Cioè va bene comunque, dai, già è comprensibile. Andare, andare. Dove così è? Io so che sono un attimino, di famiglia. Famiglia. Papà. Venti qua, cambio. Papà. Ora. Ora, cambio. Aspetta, la loro dose. E scende la destra. E cosa non ha colpa? Cattivo, non c'è. Prova, ora, ora. Cambio. No, va bene, va bene. Che ne è per i porti? Tre farendi d'aria, tre farendi, porca balesta. Stamattina è una bella giornata. Tutti no, chi la semu, fra, tutto, tutto qua lasciamo. La gente fastidio, quella ricca, no, che si fa vedere. Tanto tutto lì lasciami, tutto là ti ci magnani. È una cosa che va, come si dice, ma se ha figli, poi figli, poi dai figli dei figli, insomma, una catena. Io mi l'ho modificato a Gianni, io gli ho messo i pomelli qua e così, i bocchettoni, quello rosso nero dietro, il cavo l'ho fatto passare dentro e poi gli ho collegato il tastino all'accensione, lo accende, lo spegne da su, e io non so chi è, ma dai, fra, perché, e chi ne so, proprio, e sto aspettando la marina, dai, adesso la provo a chiamare, fra. Cazzo, sei uscita, non c'è più che durrà. Prova a chiamare a vedere a che punto è, là. Se ci sei dopo, fra, se no alla prossima, là. Ciao, Plope. No, sono qua io. Capito. Appuntamento con Antonio, domani mattina faccio un salto là. Faccio un salto da Bacchiso, là, se ce lo fanno vedere. E poi domani sera non so se mi è facile, perché sono in campagna. Ciao, saluto anche a voi, ciao, grazie. Cosa è? Che modello è? Tipo quello con l'accordatore, no? Ah, ce l'ha a parte, ce l'ha. Oh, K, no, già, già è bello, già. No, già vanno bene già, cavolo. Però io ce l'ho, ormai che è una cannonata, anche quello con la busta bianca, cioè con la cosa bianca. Quando con la carone una cannonata fanno. Perché gliel'avevo detto anche io, gliel'avevo detto. Se mi agisci. No, non mi ricordo, no, anche di meno. Però dico la verità, sono alimentatori che vanno veramente, ma veramente bene. No, non li posso di nulla, la verità. Buonissimo, va bene. Va la grande fa. Hai provato col magno moa? A sovraccaricarlo a vedere com'è. Ma è già attaccato, eh. Ho detto, già attaccati gli figli del magno. Scappa. Prova fra. Vai, va a andare a fare un bumpa, vedi si anda. Scappa, come si è tutta birra? Vai, vai. Ora, 1, 2, 3, 4. Bella gas, pompa, pompa. Adesso va a segnare giù, aspetta. Sarà più forte, no? Penso. Con la voglia che è più forte. Va bene. Va bene. Sto scendendo un bel, saranno più di 60 anni. Fa la differenza da uno all'altro, questo è il mani. Il microfono sia normale. Adesso faccio sentire il 68. È buono. Va bene. Antonio. Ehi, dimmi. Dammi il controllo di radio. Buono. Basso no? No, basso no. La verità no. Eppure qua sembra troppo. Vabbè, un microfono normale. Sì, per essere un microfono normale va abbastanza bene lui. Un SPE. E una cannonata, sì. Sì, una cannonata, gappa. Gava, gava. Vai col magno. Adesso Luca, mi ascolti? 1, 2, 3, 4. Bella. Buona sagumba. Guarda come sta radio. Pompa di brutto, pompa. Ho trovato quel letto, questo è il letto. Con una calecca bruva. Adesso Antonio Bombolo. Mi ascolti questa piccola modulazione della città di Sassari, cambio. Capa, già ti ascolto. Capa, e capa. Aspetta. Potrei scusare qua, usare uscire liscio. Senza rettaezza. Bene. Mi sposto anche uno, riprendo subito. Ok. Attenzione 10, c'è qualcuno, K! Che c'è qua? Avanti! Attenzione, il canale 10, canale 10 c'è qualcuno, K! Non sono da meno, abbiamo la mossa di... Che è avanti? Scusa Anto, col gomito premuto il tasto delle, del mic, sto guardando video musicali di YouTube. E beh? Ah, scusa. Vabbè Marco, da posto? Sì, sono tutto annoiato. Sto guardando musica su YouTube, rock, quello che c'è. Che palle le giornate. Cappa, ma dicendo un po' strano ti sento Marco. Ma strano uscendo male, guarda che sto usando il mic da tavolo. Io il mic da tavolo non lo uso mai, mai mai mai, sono a 30 cm. Oh cappa, boh, un pochettino, boh, c'è qualche cosa che non va. Ma la batteria la posso, Sì, la batteria è appena caricata, può darsi che sia troppo alto il mic. Vediamo, mettiamo la 5, ecco adesso a 5, distanza la medesima, vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. No, ora va bene. Era troppo alto il mic. Mamma, li turchi, si sono fatte già le 8 e mezza, sì. E più che guardare la TV, Antonio, non si può fare, tanto... Poi oggi voglio parlare, non ce n'era, già lo sai, perché... Mi vedo se c'è qualche film passabile oppure qualche DVD mio e passare la serata. Ok, adesso vado a farmi un bel caffè in vena, capito? Me lo inietto con la siringa, tipo droga. Capo. Ti volevo dire una cosa. Beh, come va quella macchinetta? Bene, sei contento? Ah, la faccio a modo mio, sì. Diciamo che il proprietario si lamentava che un po' di acqua da sotto ogni tanto la fa. Già c'è la vaschetta sua, no? C'è la vaschetta di raccoglimento delle acque grigie o come le chiama, però... Il caffè è buono, niente da dire, poi è comodo perché non devi pulire niente quasi, butti la capsula e fatto tutto. Ma quale c'hai tu, che modello hai? Quella che c'ha il coso sotto o quella che si toglie una capsula per volta? No, ha la vaschetta per raccogliere le capsule e io ogni tanto ci va un po' più di acqua, capito? Magari quella che non passa attraverso la capsula. Ti dico il modello, modello Jolie, colore verde lime. Sì, la conosco. Mi avevano indicato anche questo caffè Borbone miscela nera, la più forte, no? Però, oddio, buono era buono, però non mi ha entusiasmato più di tanto. Cioè io i Lavazza li trovo buoni, tutti i Lavazza, qualità rossa oppure creme gusto oppure quella oro, miscela oro, mi accontento della Lavazza, che Borbone costa ancora di più. Aspetta un attimino, se vuoi il Borbone di certo non è quello nero, devi andare su quello, come si dice, su qualità oro, allora sì che cambia la situazione. Sì, sarebbero da provare un po' tutti, perché c'è Borbone miscela nera che è solo praticamente robusta, la chiamano così, è quasi tutta miscela robusta e una piccola parte di arabica. Quella blu dovrebbe essere metà arabica e metà robusta come miscela, capito? E poi credo quella oro sia ancora più morbida, credo molta più arabica e meno robusta, capito? Basta provarle tutte e trovare quella che piace di più, però io con il Lavazza mi trovo già bene, e poi è proprio quello suo della macchina. Tu fai come ti ho detto io, prendi qualità oro, prendi. Oltretutto costa di più ed è superiore a tutti. La gabbia la blu, la blu potrebbe passare un po'. Tu prendi la qualità oro, poi mi torni la risposta, mi dirai avevi ragione. La proverò, se la trovo in piccole quantità sì. Perché poi, vabbè, se vai dei negozi specializzati ti vendono 50 capsule per volta, capito? Non so quale sia la confezione più piccola che hanno. Non so quale sia la più piccola. Mentre forse nei grandi magazzini trovi le confezioni piccole, quelle di prova, tipo 10 capsule. Scusa un attimino, alla fine c'è una bella scadenza, c'è, capito? C'è una bella scadenza, quindi che te ne vuoi, cioè, alla fine chi su cosa lo bevi tutti i giorni il caffè? Cioè te ne compri 50, non ci stai perdendo nulla, cosa vuoi che costi? 12 euro? No, non c'è problema, capito? No, problema non c'è, però metti che mi capiti proprio quello che non mi piace e me lo devo smaltire piano piano, me lo devo usare uno ogni tanto, così dai. Se ci fosse un campionario piccolo invece, che ne so, te ne danno due o tre di una, di un gusto. Per esempio, quando compri la macchina, la crema, la lavassamodo mio, ti danno delle capsule di prova, te ne danno mi pare due di ogni tipo, e c'è, che ne so, lavazza qualità rossa o simile, c'è altri nomi, no? Crema e gusto, qualità oro, c'è tutto il campionario, capito? E poi scegli quale ti piace di più. Però per il borbone, vabbè, devo andare così. A me me l'hanno consigliata la nera perché è la più forte. È un caffè che va bene la mattina quando ti devi svegliare, mi hai capito? Ascolta, facciamo così, siccome io ce li ho quelli lì, cioè, devo ricordare di prendere una, ne prendo una, te la passo e tu te la gusti. E mi dici com'è, io ce li ho in deposito. Ah, vabbè, anche. Facciamo scambio, tipo le figurine. E poi torna la risposta, secondo me ti piace un bel, perché tutti quella che l'hanno provata, l'oro, qualità oro, è una gannonata era. Cioè, buona veramente il caffè, buono proprio. Yes. S, Sassari. S, dimmi se sulla S soffia il microfono. S, Sassari. Bufano. È sensibile un po' con la S sto mic. Poi questo è il 3009 che ha il come si chiama, Anto? Il trimmer della modulazione aperto, tutto aperto, quindi se alzo troppo il mic potrebbe incasinarsi. Adesso te lo provo a dirci, guarda. Sempre seduto sulla sedia, sto parlando anche piano e non sto parlando così, sto parlando piano, ecco, guarda un po', vedo un bel di picchi qua, vedo lo smitter che sale di brutto, vedi un po'. E abbassa che non va bene. E questo è vergine, questo è un MB più 5 non modificato, questo come esce di fabbrica l'ho lasciato. È nuovo, non lo uso mai, aspetta, lo regolo bene, 5, 1, 2, 3, ecco, 5, credo che vada bene, tanto alzare troppo non serve. Ok, beh, Anto, chiudo, vado a farmi sto caffè e lo porto anche a mamma, e poi mi attacco alla TV, ok? Ci sentiamo. Ciao, bene, mi senti tu a me, che ho fatto una piccola modifica al microfono. Fai un passaggio che ti attenuo. 1, 2, 3, prova. Ma sì, lì ci ho attaccato, perché io qua l'ho smitter spento, tanto non vedo il segnale. Normale sono. No, è buona. Cioè, a me sembravi liscio, però, ti ho detto, si è fulminata la lampadina e non aggiungano a cambiarla, o a mettere il LED. quando ne ho voglia lo cambio, dai. È brutto, se si accende solo l'indicatore di canali, capito? Poi il campo, dove è accendiato? Quando scala si vede. Ehi, come l'altro, sarai... se sei liscio sei quasi 9,25. Da liscio sei tra 9,20 e 9,25, più o meno, eh. Non è così, sarà 9,30. Tranquillo. Quando attacchi è che sei, sei oltre il 9,25. Prendila per buona, perché questi smitter sono, chi si sono gaggati questi di... Il Kenwood almeno aveva uno smitter di tutto rispetto, potevi dare segnali un po' veritieri, però io l'ho provato e non mi trovavo tanto bene col Kenwood, no? Più di tanto non sono riuscito a farmelo piacere. È questione dei gusti, vabbè. Già va, già va, già vanno anche quelli. Cappa. Dai, ci sentiamo, ti lascio stare, se no non riesci a fare un caffè. Cambio. Ciao, ciao. Mi, con la tua voce dovrebbe andare meglio il Kenwood, lo sai, tu hai la voce più grossa e magari rende meglio. Tu l'hai mai provato il Kenwood, l'hai mai usato? No, no, non mi piacerebbe, non l'ho mai usato, no. Sì, è bello che c'hai una modulazione buona, insomma, poi le corde vocali fanno molto, c'hai già i watt senza dover mettere né lineariti né nulla, capito? C'hai già i watt. Il mio era solo 40 watt, non era modificato, pensa, era ancora originale. 40 watt in AM massimi, forse 50 modulati. Volendo si può modificare e raggiungi quasi 100, mi pare. Capito? Non hai bisogno nemmeno di lineare, tutto lui fa, capito? Vabbè, mi devo arrangiare con quello scassone dell'87, che funziona bene lo stesso, posso avere la radio, cioè, ancora no. Purtroppo non me la posso permettere la radio, che costa. Vabbè, prima o poi la metterò, L'importante è usare il microfono da tavolo, l'MC60, perché il mic da palmo assolutamente no. Non, meglio niente allora. Ok, ciao Anto, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, ui, il PTT bloccato, lasciato. Ma si può essere così esauriti. Ciao, ciao, ciao.